Io in questo momento mi trovo nei pressi della Knesset, il Parlamento, qui a Gerusalemme, ed è in corso una nuova grande manifestazione. La gente sta ancora affluendo, migliaia e migliaia, non solo da Gerusalemme ma soprattutto da altre città, perché il progetto di riforma della giustizia avviato dal governo Netanyahu nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, comunque va avanti, ed è un progetto di riforma che prende di mira soprattutto la Corte Suprema, i giudici, cercando di metterli sotto il controllo dell'esecutivo più o meno, più altre importanti questioni che riguardano il miglioramento del ruolo delle corti religiose, delle corti rabbiniche. Quindi la protesta continua mentre si è in attesa di un discorso di Netanyahu che, stando a quello che hanno anticipato i mezzi di informazione israeliani, dovrebbe annunciare una sospensione del progetto del disegno di legge che è in discussione in Parlamento. Però non c'è certezza di questo, per il semplice motivo che Netanyahu guida un governo di estrema destra religiosa, dove l'estrema destra è particolarmente importante, fondamentale per la stabilità della maggioranza, ma anche per la salvezza di Netanyahu, che, sottolineiamolo, è un primo ministro sotto processo per corruzione ed evidentemente con questa riforma della giustizia sta cercando di salvarsi. Tant'è vero che qualche giorno fa è stato già approvato un articolo di questo nuovo disegno di legge che toglie al Parlamento e al governo stesso la facoltà, a meno che non si abbiano numeri eccezionali, di dichiarare incapace un primo ministro, e quindi già questo fa il gioco di Netanyahu. Però vi dicevo, Netanyahu adesso, di fronte a tutto quello che sta accadendo, ieri è stata una giornata incredibile in Israele per manifestazioni, soprattutto nella notte nella zona di Tel Aviv, di blocchi stradali, oggi ci sono scioperi ovunque e non si parte neanche dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, quindi il paese è praticamente fermo. Di fronte a questo Netanyahu è quasi costretto a fare un passo indietro, però allo stesso tempo c'è l'estrema destra che gli dice: se fermi il progetto, la riforma della giustizia, noi non ci stiamo più, e quindi potrebbe cadere il governo stesso. Quindi si parla di una sospensione, di un congelamento, ma non di una cancellazione. No, si parla di un congelamento, ma ripeto, queste sono indiscrezioni giornalistiche, dobbiamo vedere cosa dirà Netanyahu. Io credo che cercherà di dare un colpo alla botte e uno al cerchio, forse di congelare, sospendere l'iter che è in corso in Parlamento, per poi riprenderlo un po' più avanti, sperando che la situazione diventi più favorevole all'approvazione di tutto il progetto, magari in una forma con contenuti leggermente diversi dal testo che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Ampliando un pochino il raggio, abbiamo parlato di quello che potrebbe comportare la riforma per la stabilità dell'esecutivo e a livello politico interno. In quanto a politica estera, a livello internazionale, come sta venendo recepita questa riforma dai paesi liberal-democratici dell'Alleanza Atlantica e cosa potrebbe comportare per Israele all'interno dello spazio internazionale? Naturalmente bisogna fare delle differenze. E gli Stati Uniti hanno più volte manifestato, e sono il principale alleato di Israele, preoccupazioni per questa riforma della giustizia. Diversi rappresentanti dell'amministrazione Biden lo hanno messo in chiaro, che a Washington si guarda con attenzione a ciò che sta avvenendo in Israele. Lo stesso ha fatto la Germania, dove si è recata qualche giorno fa il premier israeliano Netanyahu, e i leader tedeschi hanno sottolineato l'importanza del rispetto dei principi democratici e della separazione dei poteri. Naturalmente, quando Netanyahu è venuto in Italia, è stato accolto a braccia aperte, e il governo Meloni non ha aperto bocca su tutto questo, ma si è limitato semplicemente a ribadire l'alleanza a tutti i livelli tra Italia e Israele, e che si svilupperà ancora di più nel prossimo futuro.